24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. E una forza di sinistra debba essere innanzitutto una forza anticonformista, che non smarrisce mai la bussola. Credo che immaginare che questa bussola possa portare oggi a sostenere l'area del governo Renzi sia uno sbandamento, un andare fuori dalla strada. Vendola! Per questo dai, sì, sono molto dispiaciuto, considero un errore politico quello di coloro che abbandonano un partito come Sinistra Ecologia e Libertà che non si chiude. Vendola che giri di parole per dire quello che Iena sulla stampa oggi in tre righe scrive: sinistra, eutanasia e libertà. Finito, basta, capito Vincino? Pum, finito. Buongiorno Vincino. Buongiorno. No, tu preferisci la versione più articolata, compiuta, elaborata di Vendola oppure Iena? Iena proprio al 100%, è brevissimo, fa. Sì, ecco. Dico, bisogna essere veloci, renziani. Bisogna risparmiare parole, cose, quell'altro, no, chiacchiere, come dire. Non è che... Esatto, veloci, bisogna essere Renzi pie veloce. Tra l'altro saluto Elisabetta Fusconi in redazione che mi scrive, e l'ho anche tagliato Vendola, cioè era più lungo, capito? Abbiamo fatto una sintesi, abbiamo preso il succo dell'intervento. Va bene, voglio salutare, come detto, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Saluto anche la 59esima settimana decisiva per la riforma elettorale che se ne va insieme all'abolizione delle province, 59esima. Saluto anche, ma dopo aver aperto il Parlamento, dopo aver sentito Nicole Minetti, che attenzione, non è incinta, clamorosa smentita. Silvietta Brasca è clamorosa smentita, lo sapevi? Sì, non si può non sapere. Cioè, che cosa? Sapevi che era incinta o sapevi che sì, ha smentito? Tutto hai seguito, Non è incinta. No, non ho seguito, ti arrivano in testa certe cose. No, lei te le ricordi anche. No, ne hai parlato anche in riunione di redazione al TG della 7, io lo so. No, proprio, guarda. Lo so. Ti sei proposta per un servizio, lo so. Vabbè, capito, non è incinta Nicole Minetti, state tutti sereni, state tranquilli. Oh, bisogna fare anche un comunicato. Il comunicato è questo, cara Silvia Brasca, caro Vincino, Vincino, sì, lo dico anche a te che sei con la satira, è ufficiale. Il carro del vincitore ormai non ha più posti, non si può più, è inutile affrettarsi, non c'è più posto per nessuno. Anche se è enorme, no, ma non c'entra più niente. No, basta, dopo con gli ultimi di Sel arrivati, non c'è più niente. Fanno due maggioranze sia alla Camera che al Senato proprio, non hanno bisogno di nessuno, per cui per questo è molto tardivo l'appello di 5 Stelle là. Sì, che dobbiamo cacchiare? Ma io non lo so. Ho capito. Insomma, la situazione come la potremmo descrivere, Silvia Brasca? Si fanno le riforme, forse, anche 4 di Sel abbandonano Sel perché dice Vendola, siamo partiti da Vendola, è uno sbandamento, insomma, il timore è che si avvicinino anche loro a Renzi. E quindi, cara Silvia, si fa tutto in 448, ormai c'è il pensiero unico o no? Sto esagerando. No, allora, Renzi dice da noi le porte sono aperte e io appunto cito migliore fava di Salvo e Piazzoni, no la deriva minoritaria. Non deve essere neanche facile essere lì. non deve essere facile. Non deve essere facile. Vogliono entrare in quella porta che si è aperta. Ah, eccolo. E appunto, io ho detto brutalmente il carro del vincitore, però insomma, ma sono movimenti che in politica ci stanno. Li abbiamo visti nel 94. Adesso fammi adesso, Vincino sa tutto. Nel Berlusconi, 94 quando Berlusconi, che è successo alle 6:40 del mattino? Che è successo bene nel 94? Vincino, aiutami! Tu che nel 94 avevi già. Nel 94 c'ero già, ma sì, anch'io c'ero. Come dire, sono successe tante cose nel 94. Vabbè. È successo con Berlusconi quando c'è uno forte. Ah, certo, esatto. Proprio l'abbiamo visto lì. Mi sembra lo stesso flusso. Ecco, lo stesso poi dopo flusso. Il vincitore, il carro, la politica. Cioè, adesso Renzi è forte e quindi tutti puntano in qualche modo. È come una calamita, no? Vincino, te lo immagini? Sì, come una calamita. Stare sempre a perdere, come dire, no? Peraltro a perdere pure a farsi dare le botte pure da Barbara Spinelli. È una cosa. Insomma, da Barbara Spinelli. Ma sì, no? Perché, come dire, hanno fatto la stessa cosa a quell'anno, non hanno preso proprio niente, proprio perché di natura sono minoritari, proprio perdenti. Quello è il migliore, era PD nel cuore, nell'animo, è governativo nell'animo. Migliore. Assolutamente. No, ma adesso dice. Spesso, no? No, ma dice sì. Che adesso sta vivendo un travaglio, si è messo anche un groppo in gola nel lasciare Sel. Così è. Vabbè, però è il momento, Vincino, che c'hai contro il Movimento 5 Stelle? Dai, sono pronto a twittare. No, mi sono proprio impietosito in questi ultimi giorni. No, in che senso? C'è quello che non è più, Grillo non è più, la tournée è finita, basta, non so andare a stare in vacanza, non proprio... È insopportabile continuare a stare con questi ragazzini imbecilli che sono tutti quelli che si è coltivato insieme. E per cui vabbè, li lascia fare, e questi dicono disperati, vogliono pure loro entrare, ma dove? Aspetta che spazio, lo sto vai avanti, perché lo sto twittando, lo sto twittando, così ti faccio passare il tuo bel weekend. Allora, Vincino, sono felice, tranquillo. Allora, dimmi se è testuale così, Vincino, sì. 24 mattino, mi sono impietosito col Movimento 5 Stelle, sì. Grillo non ne può più di stare con questi ragazzini imbecilli. Sì, più o meno è questo. Allora, aspetta che faccio. Incapaci poi proprio, non è che incapaci. Vediamo se ci sta. Imbecilli. Incapaci. Fanno mozioni di sfiducia una dopo l'altra, no? Allora, aspetta, lo sto mettendo. La Lorenzina è comica, però. Ok, eh? Non è più stato. Questi ragazzini imbecilli e incapaci. Lo metto? Sì. Tweet? Sì. Tweet? Ah, ok. Ho twittato in diretta, così adesso potete dire la vostra, cari amici del Movimento 5 Stelle, nei confronti di Vincino, se volete. Sì. È già online, se volete. Ultima, non parlo più. Io non sopporto la Lorenzina. Però fagli la mozione di sfiducia, perché è insopportabile. Così, vabbè, così. Che... No, ma perché, vabbè, lasciamo perdere. Ma fagli la mozione di sfiducia, perché non ha accettato il metodo Stamina dopo quello che abbiamo sentito, letto e cosato della Guarinella a Torino, è una cosa che, come dire, dal fatto che loro sono a Brescia per corruzione, perché uno dei dirigenti di Brescia aveva un problema, allora le ha fatto entrare a Stamina. Vabbè, insomma, ce l'hai tu. Ce l'hai contro la Lorenzin, ma ce l'hai anche contro il Movimento 5 Stelle che ne chiede. Vabbè, Silvia Brasca, questo è la questione delle riforme. Ma ce la faremo queste riforme alla 59esima settimana? Assolutamente sì. No. Stai zitto, ma figurati. Aspetta un attimo, fammi sentire Silvia Brasca. Ce la faremo. Sì, ma non so che numero di settimane arriveremo, insomma, secondo me non è nella 60, nella 62esima, aspettiamo. Però ce la facciamo. Si fanno. Però attenzione, c'è un'altra grande novità, un altro grande annuncio, caro Vincino, qui ormai la satira è oltre, siamo oltre la satira. Berlusconi attacca i magistrati. E c'è stata questa udienza alla Vitola nella quale il PM gli ha fatto delle domande e lui ha detto: non capisco il senso delle domande. Il PM gli ha detto: non importa, non c'è alcun bisogno che capisca, funziona così, sa. Caro Vincino, come la sfanghiamo questa? La supponiamo che in America un tribunale americano funziona, perché là cioè, il sistema funziona in un modo o nell'altro. In Italia funziona molto molto molto peggio, come cosa. Non, poi come dire, per esempio, io sono d'accordo con Travaglio di ieri, che è difficile da dirsi da parte mia. Vincino d'accordo con Travaglio. Travaglio di ieri che dice che Napolitano che interviene, CSM niente problemi per Milano, va benissimo così, non si tagliano più gli aerei, siete d'altro, perché lui è il capo delle forze armate, di tutto, va benissimo così. Come dire, è insopportabile questa cosa qua. Silvia Brasca, ma vedi, tutto insopportabile, Vincino, ma digli qualcosa, cioè è tutto insopportabile per lui. È fatto così. Grazie. L'importante è che non diventi un brontolone. Hai ragione. Il pericolo è questo. No, non è un brontolone. Giustamente, guarda le cose per un altro verso. Come questa mattina Berlusconi andrà a Cesano Boscone con i suoi anziani. A convertire un paio di comunisti. Uno ce l'ha già fatto, c'è già riuscito. Comunque, no, ma oggi non so se c'è Cesano Boscone, c'è anche l'apertura dell'appello Rubi, tra l'altro Rubi che parla in un'intervista al Giornale, dice Berlusconi è stato condannato per nulla, io avevo 17 anni, ero totalmente allo sbando. La verità è che Berlusconi mi ha rispettato più di tutti gli uomini che ho incontrato nella mia vita precedente in locali e discoteche. Questa è la versione di Rubi. Intanto andiamo al traffico, perché poi c'è... Ma Vincino, esce il libro? È uscito il libro? È la settimana prossima. Che cosa? Io cerco di anticiparlo. Tutte ma le volte mi dici che esce, è come le libro. Riforme di Renzi, come dire. Non uscirà nella 60ª settimana decisiva. Il mistero dopo il traffico. 24 mattino. Renzi si deve ficcare in testa che i giochetti che fa con questo e con quello per arrivare a controllare Camera e Senato non ci piacciono. Gli italiani hanno anche detto che vogliono le preferenze e che un Parlamento di nominati è anticostituzionale. Mare Nostrum salva le vite di tanti disperati, e umanamente parlando è giusto salvare le vite di questi disperati. Mentre invece abbiamo assistito a diversi suicidi di imprenditori, di gente che non ce la faceva più, magari anche di persone che attendevano dallo Stato dei soldi che non arrivavano mai. Qui invece li abbiamo lasciati morire. Mi spiegate allora qual è la differenza tra queste vite e quelle dei barconi? Perché anche questa gente stava affogando. Basta buffoni, criminali, far guerra, basta, è ora che basta. Quanta gente è morta sulle guerre, cosa hai conquistato? Niente, zero, fame, distruzione, basta, basta. Tu leggi sempre i giornali alla mattina, io volevo leggere un giornale che è arrivato oggi, ti dico il titolo, quota consumi 131,15, sottotitolo, quota fissa, quota energia, dispacciamento, componenti di perequazione, servizi di rete, quota fissa 2, quota energia 2, imposta erariale, oneri diversi, arrotondamento precedente, arrotondamento attuale, IVA, totale bolletta 456 euro, 325 euro di tasse. Queste sono belle notizie. Vincino noi, Vincino poi! Questo non è male! Vincino noi, Vincino poi! Vincino, questa è stupenda! Molto bene! Vincino noi, Vincino poi! La prendo dal treno, paff, e la blocco là! Certo, questa faccio copia e incollo in testa! Questa roba è bellissima, Vincino poi! La domanda però cruciale a questo punto è perché, cara Silvia, dai, ci interessa solo la Coppa del Mondo! Cioè adesso tu cioè oggi alle 18 gli uffici si chiudono, gli autobus si fermano, i tram a Milano non vanno, la metropolitana a Roma non va, tutto chiuso, servizi pubblici sospesi. Alle 18 c'è Italia-Costa Rica, no? Assolutamente. Allora devo farti questa domanda da donna, che è la domanda fondamentale della giornata di Radio 24. Ma tu, se fossi in Alena Seredova coi figli, andresti in Brasile, dove peraltro c'è anche Ilaria D'Amico, ma nel senso come tante altre giornaliste, a tifare il tuo quasi ex marito Buffon? Ma certo. A parte che mi sembra, lei è già partita, ha twittato la fotografia, sono molto informata. Sì, sì. Ma secondo me la D'Amico non è in Brasile. Non è la D'Amico? Ma cosa c'entra la D'Amico? Ho citato la D'Amico. Ma per dire che ci sono varie giornaliste, non so, ho letto che c'è del gossip. No, io faccio la cronista, bisogna vedere, se no si fanno i pasticci. Comunque ci ha fatto bene, dai, è il divorzio 2.0. Ecco appunto. Va bene, quindi va giustamente a tifare. Tu, Vincino, no, non c'entra niente se fossi... No, vabbè, però... Comunque non essere sessista, non chiedere a me solo questa cosa. Vabbè, ma tu in quanto donna, scusa, cioè, allora tu, Vincino, se fossi Buffon... Vincino, ve lo vedete, no? Ve lo vedete, Vincino, nei panni di Buffon. Vorresti Alena Seredova... con i figli a tifare oggi allo stadio Costa Rica? Assolutamente sì, d'altro canto poi c'è Sirico, cioè, a tifare Costa Rica, ho detto a tifare contro la Costa Rica, ovviamente. Ho del lapsus clamoroso, a tifare Costa Rica, no, a tifare Italia contro la Costa Rica. Assolutamente sì, dicevo, c'è Sirico in porta o no? Chi c'è in porta? Torna Buffon, non lo so. Torna Buffon, non lo so. Torna. Io sono per Sirico, ma poi vediamo. Com'è che l'hai chiamato? Sirigu, ecco, Sirigu, ecco. Vabbè, quindi vabbè. Ho fatto... bardo lui, poco tutto chiuso. Vabbè, ma allora, di questo libro, che libro è? Io non ho capito che libro esce di Vincino. Vincino, poi, che libro esce? Allora, esce il libro che praticamente racconta giorno per giorno come da che non era niente, in 6 mesi solo ha conquistato tutto il mondo. Di chi parliamo? Di Renzi. Era un instant book che però esce ai suoi tempi, perché il potere di pensare e fare immediatamente la bacchetta magica ce l'ha solo lui in Italia, non io. Ci proviamo, guardiamo. Vediamo. Ma esce. Esce sicuro, garantito, c'è la locandina, te la faccio vedere, stanno stampando. Andreotti. 30.000 copie di più. Andreotti che è il busto stellare della satira. Il busto di Andreotti, che dice di questa cavalcata trionfale di Renzi? Ecco qua, io offrirò delle cose là, stanzini bruciati, altre cose sotto là, la statua con... li brucerò là delle cose per propiziare perché lui è il nome propiziatorio della satira, Andreotti. No, non ho capito, ma di questo potere smisurato nei confronti di Renzi, che dice? Vendere in 2 giorni le prime 30.000 copie e poi arrivare a 280.000, che è l'obiettivo, no? Perché noi bisogna porci degli obiettivi seri certo. Se Vincino vince se vende 280.000 copie, io mi faccio frate domani. Dai, ti fermerai a 200.000, su, dai, va 200.000, bene, 200.000, va bene. Andiamo per 200.000. Allora dai, fate un veloce pronostico, dai, per portare bene all'Italia. Vincino, Italia Costa Rica 3-1. Per chi? Per l'Italia. Ottimo. Silvia Brasca. Intanto mi dicono che Ilaria D'Amico è a Milano. Non lo so perché hai tirato in ballo Ilaria D'Amico, Silvia. L'ho detto io. Silvia Brasca, dai, pronostico. 1-1. Oh, gran partito. Fa caldo. È iniziata la frignata sul caldo. Fa caldo. Che fa caldo anche per la Costa Rica, peraltro. Comunque, fa caldo. Capito, Ilaria D'Amico comunque D'Amico è a Milano. Non spacciare notizie false, Silvia. Eccoci qua. Va bene, grazie, alla prossima. Uno, due, tre. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta.

con 3.500 invitati per il nuovo Yacht Club di Monte Carlo, firmato dall'architetto britannico Norman Foster, che sarà l'invitato d'onore insieme a una lista di ospiti bloccata. A parte i soci del club, c'è posto per i numerosi amici del principe Alberto. Moët Chandon per tutti, dress code non obbligatorio, bianco e blu. Signore e signori del bel mondo monegasco internazionale saranno accolti dal principe Alberto II. Tra l'aristocrazia presente Camillo e Carlo di Borbone, Serge di Jugoslavia, Emanuele Filiberto, ci sarà concerto, musica pop, cena buffet con danze che chiuderanno la serata. Ma io dico, ma sul Corriere della Sera la carta costicchia, costicchia. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8:19 minuti. We have had advisors in Iraq through our embassy and we're prepared to send a small number of additional American military advisors. La voce che sentite è quella del presidente americano Barack Obama, che ieri ha annunciato: siamo pronti a mandare 300 consiglieri militari in Iraq per affrontare la situazione, una situazione difficile, quella irachena. Ovviamente quello che ci si chiede è: gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi nuovamente, militarmente, in uno scenario dal quale faticosamente siamo usciti, non è il caso qui di fare la cronistoria della guerra irachena, oppure no? Certo, in Iraq la situazione rimane esplosiva, a dir poco. Io intanto lo voglio chiedere a Lorenzo Cremonesi, che è l'inviato del Corriere della Sera, si trova a Baghdad in questo momento e dunque nella capitale irachena. Lorenzo, abbiamo sentito, buongiorno intanto, l'annuncio di 300 consiglieri militari. Vuol dire che l'America è pronta a impegnarsi militarmente oppure no? Direi che è un po' al nuovo stile Obama. L'America c'è ma non c'è. Obama l'abbiamo visto, Obama è stato eletto dopo Bush sulla piattaforma elettorale molto precisa di ritirarsi dall'Iraq e dall'Afghanistan, cosa che ha fatto puntualmente, e adesso si ritrova comunque che la guerra gli sta scoppiando in casa, non può uscirne totalmente, deve in qualche modo sostenere, come dire, la normalizzazione, anche se qui non ce n'è, e soprattutto lui ha un grosso problema di cui è ben consapevole, e cioè qui ci troviamo davanti a un primo ministro, Nouri al-Maliki, che è causa di tutto quello che è avvenuto. Io su questo sono molto netto, e cioè Maliki metodicamente ha ostracizzato, eliminato qualsiasi tipo di collaborazione con la minoranza sunnita, che è una minoranza importantissima, oltre il 30% del paese sono i vecchi sostenitori di Saddam Hussein. Quello che è avvenuto negli ultimi mesi, anzi ormai io sono venuto due o tre volte in Iraq nell'ultimo anno, era evidentissimo, se quello che sta avvenendo adesso era scritto sui muri, non c'è niente di nuovo in tutto quello che sta avvenendo. Niente di nuovo. Tu tra l'altro hai raccontato il paese in questi giorni dal nord al centro, diciamo a Baghdad. Che cosa ci puoi descrivere di che, in che stato è il paese e cosa chiede la popolazione? È davvero una situazione esplosiva come raccontata dai giornali? Allora, l'Iraq de facto, noi diciamo sempre sull'orlo della guerra civile, sull'orlo, l'Iraq si è diviso in tre. Quindi abbiamo il nord curdo che si è consolidato tantissimo ed è la vera parte vittoriosa di tutto quello che è avvenuto negli ultimi giorni. Quindi ormai è uno Stato a sé, con un suo esercito, una sua dignità, il suo governo, proprio ormai lo è, e lo è proprio non solo de facto ma praticamente anche de jure. Al centro occidentale abbiamo l'elemento sunnita, che è l'elemento che negli ultimi giorni è esploso, cioè questa è una guerra civile cito-sunnita in cui i curdi stanno a guardare, ha creato una propria enclave militante collegata, e questo è il fatto grave, con la Siria, quindi con gli estremisti in Siria, ed è questo, ora bisogna vedere come lo si accomoderà, ma non si torna più indietro. L'Iraq è diviso in tre e c'è questo elemento sunnita fortissimo che sta attaccando. E poi naturalmente c'è il sud, il centro-sud sciita, che è la grande maggioranza, sono oltre il 60% della popolazione, che adesso è sulla difensiva e sta contrattaccando. Tra l'altro qui, proprio qui a Baghdad, domani ci saranno le grandi manifestazioni indette da Muqtada al-Sadr, che è l'elemento più estremista dello spettro sciita. Quindi i sciiti stanno armando, si stanno scendendo in piazza. Quindi siamo in una situazione molto di divisione e molto molto esplosiva, insomma, come ho detto io. Tra l'altro, Cremonesi, fammi salutare Cecilia Strada, che è presidente di Emergency. Buongiorno Strada e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, voi siete operativi nel nord dell'Iraq, in quello che Lorenzo Cremonesi ci racconta di fatto uno stato quasi separato, no? Diverso dal destino della restante parte dell'Iraq. Intanto, quali sono le notizie che avete riguardo a quello che sta succedendo nel paese? Sì, noi lavoriamo in Kurdistan dal 1997, siamo in questo momento a Suleimania con un centro protesi che lavora tantissimo, perché l'unica cosa che non manca in Iraq sono i mutilati di guerra, e ci stiamo da pochi giorni lavorando anche per l'assistenza dei profughi siriani nel nuovo campo di Arbat. Quello che vediamo da dove siamo noi è il continuo spostarsi delle persone, naturalmente 400-500 mila persone sono scappate da Mosul, sono stati messi in piedi dei checkpoint in Kurdistan per evitare naturalmente le infiltrazioni. C'è molta paura di quello che può arrivare in Kurdistan in fuga da Mosul. Un terzo di questi profughi troveranno a quanto pare una sistemazione in Kurdistan, perché hanno dei parenti giù o possono attrezzarsi in qualche modo. 40.000 persone non hanno ancora idea di quale sarà la loro sorte, di quale sistemazione potranno trovare. Questo è lo scenario. Diciamo, Emergency per costituzione da sempre si è distinta per essere un'organizzazione assolutamente che ripudia qualsiasi tipo di azione militare. Non vogliamo adesso fare la cronistoria di quello che è successo fino adesso, Cecilia Strada, ma l'idea di Obama che dice mandiamo consiglieri militari, non ci impegniamo, al limite potremmo utilizzare dei droni. Insomma, come vedete la strategia americana? Beh, fallimentare direi, perché l'unica risposta che si riesce sempre a dare da parte del governo americano è appunto mandiamo i droni o mandiamo altre armi, sosteniamo con altre armi il governo iracheno. Io sono assolutamente d'accordo con Cremonesi, lì il problema è stato dopo l'invasione che cosa si è costruito, e non si è costruito uno Stato, si è sostenuto un premier che ha alimentato le divisioni su base religiosa e l'attribuzione del potere su base religiosa e settaria, e questo è il risultato. Quindi io penso che l'unico modo per ricominciare ad avere un Iraq che non muore ogni giorno in una guerra civile è investire nella costruzione di uno Stato che finora non si è mai visto, che però non può essere costruito sulla base religiosa o settaria. Cremonesi, ci arriva un messaggio, è il gran classico, Obama deve sostenere gli interessi americani del petrolio, il resto è solo narrazione. È davvero così? Quando si riduce, diciamo, ad interessi economici che sono importanti e ci sono, è inutile negarlo, si riduce, si racconta solo una parte della storia, o quanta grande è questa parte della storia? No, io veramente non ci sto su questa narrativa, è banale, è vecchia, è superata, è una narrativa antica che non ha nulla a che vedere con la realtà. Gli Stati Uniti ormai sono diventati un paese produttore, hanno il fracking, se ne parla tanto, stanno uscendo dal Medio Oriente. Obama ha un problema di quello che è successo negli ultimi 13 anni, cioè di retaggio. L'America ha una responsabilità politica, morale, non può abbandonare completamente il Medio Oriente, e tutto sommato Maliki è figlio suo, quindi l'America ha dei doveri, ha un dovere rispetto alla propria opinione pubblica. Obama lo sa benissimo, quindi. Però se si riduce tutto a un discorso di interessi petroliferi siamo davvero al banale. Leni ha una fortissima presenza nel sud, la BP ha una forte presenza, ma insomma quello che io però vorrei ricordare, e per collegarmi alla strada con cui sono d'accordo al 100%, non dimentichiamo che i sunniti, che oggi sono accusati di essere terroristi, eccetera, sono quelli, nelle grandi tribù che oggi stanno dietro questa grossa rivolta che arriva da ovest, sono quelli che hanno collaborato con gli americani negli anni 2006, dal Surge, dal 2007-2008, contro Al-Qaeda. Uh-huh. E sono, non si spiegherebbe questo successo strabiliante che hanno avuto, questa avanzata da ovest verso nord e poi da nord verso sud, verso Baghdad, se non ci fosse dietro tutto il vecchio partito battista, se non ci fosse dietro tutte le vecchie tribù sunnite che hanno un'idea molto statuale del loro essere, che sono state le grandi collaboratrici dell'impero ottomano, che furono usate come amministratori dagli inglesi, sì, e che sono stati poi per 30 anni gli uomini di Saddam Hussein che hanno retto questo stato nel bene e nel male. Ecco, resta da capire però, Lorenzo, se è questa opzione militare, che al momento in qualche modo è sospesa, qualcuno dice con un sì del congresso potrebbe essere anche ripresa, ma davvero Obama secondo te si imbarcherebbe in un'avventura del genere? No. Obama, l'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto qua, nonostante le critiche 2 anni fa, è uscito, non vuole più tornare. No, userà i droni, li userà in Pakistan, li userà in Afghanistan tra poco, quando escono. Ci saranno delle cose, però non pensiamo a un arrivo massiccio di uomini. Certo, altrimenti sarebbe anche questo ritorno al passato. Per concludere. Cecilia Strada, che vuol dire ricostruire uno Stato? Cioè, gli occidentali, se hanno fatto questa guerra, che per carità, giusta o sbagliata, il suo parere ovviamente è molto netto sul fatto che sia stata sbagliata, non dovevano, come dire, secondo il principio, garantire l'abbattimento di Saddam Hussein e poi lasciare alla libertà, alla tra virgolette democrazia che facesse il suo corso negli stati? Dovevamo intervenire addirittura stabilendo chi doveva governare? Beh, l'abbiamo fatto, è stato stabilito chi doveva governare. Ci sono state delle elezioni, poi uno può dire sono state fatte in modo magari non totalmente libero, eccetera, ma ci sono state delle elezioni in Iraq. Sì, ma si è imposto prima un governo provvisorio, Bremer, poi si è scelto a chi doveva passare mano al potere, quindi non credo che siano stati gli iracheni liberamente a costruirsi il loro governo, e purtroppo il cavallo su cui ha puntato il governo degli Stati Uniti era con ogni evidenza il cavallo sbagliato, per i motivi che ci siamo detti. Allora, di questa vicenda, perché è una vicenda che ci riguarda più da vicino di quanto possiamo pensare, torneremo a occuparci. Intanto voglio ringraziare Cecilia Strada, presidente di Emergency, e Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, si trova a Baghdad in questo momento. Dopo la pubblicità, voi certamente attendete le 18, la partita di calcio dell'Italia, e beh, sappiate che ci sono alcune zone del mondo, in questo caso africane, in questo caso la Nigeria, in questo caso anche il Kenya, dove vivere la partita di calcio può essere anche un rischio che può comportare la morte, perché ci sono delle zone dove il calcio è stato bandito in quanto simbolo dell'occidentalizzazione, simbolo dell'infedeltà. Di questo parleremo con padre Giulio Albanese, e avremo ospite anche l'avvocato di Silvio Berlusconi, cambiando tema nell'ultima parte di 24 Mattino, per parlare di cose invece più nostrane, quello che è successo ieri alla procura di Napoli. 24 Mattino. Allora, alle 8:38 minuti ho voluto fare un accostamento forse un po' grezzo per raccontare quello che avviene in alcune parti del mondo. L'accostamento è questo: mentre voi tutti, io compreso, noi tutti alle 18 oggi tiferemo Italia contro la Costa Rica e saremo lì ad appassionarci, a tifare, ci sono luoghi del mondo, in particolare in Africa, dove guardare una partita di calcio può addirittura costare la vita. In Nigeria, per esempio, c'è stato un attentato con 21 morti e 27 feriti di recente durante la partita Brasile-Messico, e dietro l'attentato potrebbe esserci proprio l'organizzazione Boko Haram, che ha vietato alle persone di esultare per il calcio. Può succedere anche questo? Io lo voglio chiedere a padre Giulio Albanese. Padre Giulio Albanese, buongiorno. Buongiorno. Direttore di Popoli e Missioni. Lo so, il paragone è un po' grezzo e rozzo, se vuoi, ma insomma fa capire che ci sono luoghi nel mondo dove non si può neanche vedere il calcio. Ma che cos'è Boko Haram? Boko Haram è un movimento estremista islamico, una filosofia jihadista, quella degli ispiratori di questa formazione armata, che praticamente dal 2009, soprattutto nel nord della Nigeria, sta seminando morte e distruzione. Questo movimento è venuto alla ribalta con il sequestro un paio di mesi fa di oltre 200 ragazze nello stato del Borno, ragazze che a detta di questi criminali avevano commesso un grave reato, quello di studiare quella che è la cultura occidentale. Sta di fatto che i Boko Haram rappresentano un fattore altamente destabilizzante, vogliono imporre la Sharia a tutti i costi ad una nazione, la Nigeria, che è bene ricordarlo, non è assolutamente una repubblica islamica, ma è uno Stato federale. Assolutamente. E perché è vietato perfino il calcio? Come ricorda un po' come le immagini dei talebani quando vietavano la TV o l'utilizzo degli aquiloni per giocare, no? Tutto quello che ha a che fare con l'Occidente, tutto quello che potrebbe essere, come dire, una sorta di metafora di quello che è esportato dalle ex potenze coloniali, viene percepito come qualcosa di negativo, insomma una contaminazione dall'impero del male. Ed è per questo che c'è questo atteggiamento che, devo dire, andrebbe, va stigmatizzato con chiarezza, anche perché, non dimentichiamolo, in effetti questi personaggi che fanno riferimento al dettato coranico, alla sunna e via discorrendo, in effetti non hanno assolutamente i tratti dei cosiddetti religiosi. In effetti la loro è una vera e propria strumentalizzazione della religione per fini eversivi. La verità è che in questi mesi, in questi anni, hanno colpito obiettivi cristiani, ma anche molti musulmani hanno perso la vita in Nigeria, a significare che in fondo quella che loro stanno portando avanti è una lotta per il potere. Quello che io fatico sempre a far capire, a spiegare o a cercare di far intuire alle persone che in questo momento stanno andando con le loro preoccupazioni al lavoro, portando i figli a scuola, eccetera, è perché l'Occidente, perché tutti noi dobbiamo interessarci, occuparci di queste cose che ci appaiono così lontane. Questa è una bella domanda, una domanda da milioni di dollari. La verità è che noi viviamo in un mondo villaggio globale, dove tutto schizza via alla velocità della luce, basta sedersi davanti a un computer per riuscire a connettersi in tempo reale con realtà geograficamente distanti da noi. La verità è che purtroppo sappiamo poco o niente di quello che succede nelle periferie del mondo, e qui utilizzo un'espressione molto cara a Papa Francesco. Il problema è che certe guerre che si combattono nel sud del mondo, certi fenomeni eversivi come anche quello dei Boko Haram, in un nolento volente ha a che fare anche con quelle che sono le responsabilità dell'Occidente, questo va chiarito. Per esempio la Nigeria è un paese che potrebbe essere davvero un paradiso terrestre, galleggia sul petrolio e sappiamo molto bene che vi sono interessi legati al business del petrolio, per non parlare di altre commodities, di altre materie prime, fonti energetiche presenti in altre parti del continente dove si combattono guerre cruente che davvero non fanno notizie. Tanto per citarne una, mi viene in mente la Repubblica Centrafricana, quel paese è davvero nel caos e quello che succede da quelle parti solitamente non viene mediatizzato, per non parlare, non so, della crisi darfuriana o di quello che succede in Somalia. E che cosa dire dell'Eritrea, dove c'è una dittatura che e però davvero... tra i vari paesi citi anche l'Eritrea, e oggi io ricordo, e Avvenire per esempio ci apre, è la giornata mondiale del profugo e racconta proprio questo, per far capire come le cose impattano noi più di quanto noi non possiamo pensare, no? Ci sono 6.000 i minori arrivati da soli nel nostro paese, quindi in Italia, magari da paesi anche come l'Eritrea, si raccontano alcune storie di ragazzi scappati dall'Eritrea e che sono anche a rischio sfruttamento, oltre che, non neghiamolo, anche a rischio di entrare nel giro della criminalità dal punto di vista attiva. Ecco, forse questo può impattare più le nostre vite. Certo, e il fenomeno migratorio, quello che noi stiamo sperimentando in queste settimane, in questi mesi, è in fondo la punta dell'iceberg di un malessere che attanaglia queste nazioni. In Eritrea, praticamente dal 1991 in poi, soprattutto dal 98 in poi, da quando questa nazione ha dichiarato guerra all'Etiopia, di fatto si è trasformata in una vera e propria dittatura. E in Eritrea praticamente il servizio militare si inizia a 17 anni, è per maschi e femmine, e può durare 20-30 anni. È una Sparta africana, nel senso che tutte le attività produttive sono state delegate all'esercito, alle forze armate. Ora è chiaro che i giovani non ce la fanno più. E vogliono fuggire in alcuni casi. E vogliono fuggire. Ora, la cosa interessante, e questo è un aspetto a mio avviso importante da sottolineare, che il fenomeno migratorio non riguarda solamente il Mare Nostrum, che come sappiamo in questi mesi, in questi anni si è trasformato in un vero e proprio cimitero liquido, ma riguarda anche gli stessi paesi africani. Io sono tornato recentemente dall'Uganda e solo nella capitale, a Kampala, ci sono oltre 10.000 profughi eritrei. E la cosa incredibile è che questa gente ha raggiunto a piedi o con mezzi di fortuna l'Uganda, percorrendo davvero migliaia di chilometri in condizioni davvero penose. Alcuni di loro addirittura sono passati per il Sudan, hanno raggiunto Khartoum, da Khartoum hanno raggiunto Giuba e poi passato il confine. Noi non ci rendiamo conto di quello che è l'esodo di questa povera gente. Ed è davvero un'emigrazione a tutto campo. No, ma è chiaro, ce ne rendiamo conto quando impatta necessariamente, un po' inevitabilmente, sul nostro paese. Io ti ringrazio, padre Giulio Albanese, direttore di Popolo e Missione, che è oggi con queste pagine anche dedicate sia all'Iraq, sia a quello che succede in alcuni angoli sperduti per molti dell'Africa. Magari abbiamo raccontato delle realtà che pochi conoscono. Realtà invece molto più vicine a noi, legate alla politica, sono quelle che sono avvenute ieri e che riguardano Silvio Berlusconi. Io a questo proposito voglio salutare l'onorevole, l'abitudine, Maurizio Paniz, che è avvocato, buongiorno. Buona giornata. Ex onorevole di Forza Italia, avvocato di Silvio Berlusconi per la vicenda di Napoli. Non di Silvio Berlusconi, avvocato di Walter Lavitola per la vicenda di Napoli. Eccoci qua, allora, avvocato Panis, l'avvocato di Lavitola nella vicenda di Napoli. Allora, ma è vero, lei ci deve fare il cronista e ci dica tutto quello che può dire, insomma, cosa ha detto Silvio Berlusconi? Ha parlato, è vero, di magistratura incontrollata, incontrollabile e irresponsabile, ha usato questi tre aggettivi? Guardi, queste parole sono state effettivamente usate alla fine dell'udienza. L'udienza era stata un'udienza serena, condotta assolutamente in maniera ineccepibile dal presidente, dal collegio, nel quale stavamo confrontati come fisiologico che avvenga in un processo, il processo, l'accusa e la difesa, il dottor Piscitelli e Dio dall'altra parte. Le ultime parole del presidente Berlusconi sono state effettivamente quelle che i giornali hanno riportato oggi, tutti, un momento di tensione. Io credo che vada capita la posizione, perché il presidente Berlusconi ritiene di essere stato da tempo vittima di alcuni eccessi, di alcune ingiustizie, e ovviamente questa situazione emotiva che ha dentro, quando capita l'occasione giusta, all'esterno. È vero anche che Berlusconi ha detto, lasciando l'aula, consegno la formula di rito a lei, presidente, affinché il decoro della giustizia venga tutelato. Sì, corrisponde al vero che il presidente ha consegnato il foglio nel quale era prevista la formula del giuramento di un testimone al presidente. Evidentemente il messaggio era continuativo rispetto alle parole che aveva usato qualche istante prima. Le chiedo anche, infine, se è vero, non è un interrogatorio questo, se ha accusato la magistratura di immunità piena o, secondo alcuni, ha detto impunità. Su questa parola c'è qualche dubbio, nel senso che forse bisognerà ascoltare la traduzione dopo che sarà stata sbobinata la registrazione. Io ho sentito parlare di immunità, però francamente non saprei dirle se la parola giusta è immunità o impunità, perché la differenza è talmente minima che nella concitazione del momento può essere sentita l'esatta parola, però il concetto alla fine non è che sia molto molto diverso. No, non è molto diverso, ma lei dice capisce un pochino Silvio Berlusconi, lei che politicamente è stato vicino, non so se ne è ancora vicino una volta che non è la più. La mia esperienza politica è finita un anno e mezzo fa e io la considero un'esperienza chiusa. Importante, assolutamente significativa, molto faticosa, gratificante da molti punti di vista, non, non voglio commentarla in questo momento, è stata un'esperienza, ho fatto tre legislature, sono lieto di averle fatte, però penso che ogni cosa debba avere un inizio e una fine. Questo ha avuto una fine e adesso io ho ripreso la mia professione, che peraltro non avevo mai abbandonato, anche in processi significativi come questo che stiamo sviluppando a Napoli, processo molto delicato, molto complesso, ma anche molto bello. Molto bello. Senta, ma quindi un commento sul fatto che Berlusconi e la magistratura, un rapporto davvero, davvero di quelli non semplici, anche ieri. È un rapporto complesso perché ci sono reazioni emotive e le reazioni emotive qualche volta determinano parole che vanno oltre le convinzioni personali. Berlusconi ha esternato moltissime volte il suo rispetto nei confronti della magistratura nel suo complesso, ma anche la sua forte critica nei confronti di una piccola parte della magistratura dalla quale ritiene di essere stato non trattato in maniera giusta. Però, avvocato Panis, la questione è questa, cioè grande rispetto per la maggioranza della magistratura, casualmente le critiche vengono nei confronti dei magistrati che portano avanti i processi contro di lui. No, non è contro di lui questo processo. Questo è un processo... Nel senso, non in questo caso, però voglio dire, in altri casi. Ma sa, tutti noi sappiamo contare, sappiamo perfettamente che il presidente Berlusconi ha subito decine e decine di processi, molti si sono risolti in termini assolutamente positivi, uno o due con la prescrizione, c'è stata anche un'eliminazione di una norma che poteva costituire una ragione di preoccupazione per un altro dei suoi processi, però è un dato di fatto assolutamente obiettivo che la grandissima parte si sono risolti con assoluzioni. Ritiene di essere vittima di alcuni eccessi, le migliaia e migliaia di udienze, le migliaia di perquisizioni, tutta una serie di campagne che nei suoi confronti queste vicende processuali hanno determinato, hanno creato uno stato di reattività. Io credo che vada capito, lo si capisce quando c'è una persona che è vittima di un processo e qualche volta reagisce ed è un processo solo, figurarsi una persona che ne subisce decine. Poi guardi che io ho massimo rispetto per la magistratura, penso che la magistratura faccia sempre bene a fare il suo corso, quindi da parte mia non riceve mai critiche alla magistratura nel suo complesso, perché non le ritengo. No, ma questo sì, altri processi sono andati male, come quello per cui è ai servizi sociali, sa che oggi lo saprà perché è molto informato, comincia il processo Ruby, le fischieranno un po' le orecchie, no, avvocato Panis? Lei è stato un po'... le orecchie soprattutto perché fra 15 giorni comincia anche il Ruby Bis, come lei sa sono il difensore di Emilio Fede nel processo d'appello, per cui necessariamente mi fischiano le orecchie. Ma paga Emilio Fede? Paga. Quando manderò il conto presuppongo che paghi, perché non dovrei pensare a una cosa del genere. No, sa, perché ci sono altri avvocati che dicono che non ha pagato. No, ma forse le fischieranno le orecchie, perché lei è diventato celebre per quella famosa, insomma, difesa all'interno del Parlamento, che poi lei ha detto. Lei ha detto: io non ho mai detto che Berlusconi che Ruby fosse la nipote di Mubarak. Ho detto che Berlusconi poteva pensare, per quello che gli era stato detto, che potesse essere la nipote di Mubarak. No, neanche questo non è proprio esattissimo. Ho detto che legittimamente o illegittimamente poteva credere che vi fosse un rapporto di parentela. E che basta leggere lo stenotipico, basta leggere il racconto che è stato trascritto. Cioè, che vuol dire che qualcuno avrebbe potuto convincerlo, la stessa Ruby nello specifico, che c'era una parentela. Guardi, il tempo che è passato ha consentito di confermare l'assoluta esattezza di quello che io avevo detto, perché nel frattempo è stato fatto un processo, sono stati sentiti in aula tutti i testimoni, è stato visto il passaporto di questa ragazza che aveva il cognome Mubarak segnato, quindi il documento è un documento ufficiale, è stato accertato che il presidente Berlusconi, quando aveva incontrato il presidente d'Egitto, gli aveva chiesto informazioni. Sono tutti fatti oggettivi che sono stati ormai acquisiti nella storia processuale di questa vicenda, quindi credo che le cose vadano ridimensionate nella maniera corretta e che l'informazione, che ha un ruolo molto importante nel nostro paese, fa bene a dare messaggi corretti e non messaggi scorretti. Se i messaggi sono corretti nessuno ha nulla da dire, se i messaggi sono scorretti evidentemente poi si creano delle situazioni che possono possono apparire non commendevoli. In ogni caso, le segnalo che oggi Ruby fa un'intervista al giornale, e magari così da avvocato difensore di Fede le consiglio di leggere. Non parla assolutamente di Emilio Fede, ma glielo segnalo come a tutti gli ascoltatori. Mi dica lei, grande amante del calcio, sebbene sia juventino, e questo un po' confligge con il bel calcio. Come confligge con il bel calcio? Se la Juve è la squadra che ha giocato volevo provocarla. È una provocazione che ha una risposta troppo facile. È come vincere un processo già vinto. Esatto. Mi dica il pronostico: l'Italia Costa Rica, forza 2-1 per l'Italia, spero. Sì. Per l'Italia. Va bene, grazie a Maurizio Paniz, avvocato del caso La Vitola, avvocato di La Vitola, ex parlamentare di Forza Italia, per essere stato con noi, anzi il Popolo della Libertà. Concludiamo dunque questa settimana di 24 Mattino con Elisabetta Fusconi in redazione, insieme a Alessandro Marcotuglia, Miriam Lucchetti, al nostro Peter Bescapè in regia. E vi ricordo 24 Mattino è l'account Twitter, e anche Alino Milan è invece il mio account Twitter. Che dire, ci troviamo lunedì? Lunedì alle 6.30, puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.